prima di tutto ciao, oggi appunto c'è questa iniziativa chiamata Critical Wine, se ci dici un po' chi sei, cosa fai e come mai sei qua oggi. Sì, ciao, mi chiamo Sandro Passerini dell'azienda agricola Cirenai, che è un robecchetto con Enduro. Ma qui siamo stati coinvolti un attimino come azienda per portare qualche prodotto che facciamo noi. Noi facciamo un'azienda agricola, noi siamo un'azienda agricola integrata, lotta integrata, e alleviamo i suini all'interno del Parco del Ticino e aderiamo al marchio del Parco del Ticino delle produzioni controllate. E facciamo siamo una piccola entità, abbiamo su 40 scrofe in ciclo chiuso, un trentina di ettari di terreno. E facciamo dei salumi tendenzialmente tradizionali con delle vecchie ricette, un po' con un concetto anche salutistico, per cui è già il fatto di non usare OGM, per cui tutte le produzioni che noi facciamo sono esenti da OGM o al limite al 0,9%. Poi non utilizziamo promotori di crescita negli animali, né farine animali nell'alimentazione, auxinici, niente. E i trattamenti che dobbiamo fare sugli animali sono di tipo omeopatico. Ve lo dico anche, strati di semi pompelmo che fanno schifo, sono amari, e del strato di origano e di rosmarino, che fanno qualche cosa. Poi vabbè, se c'è caso proprio particolare si interviene con raddoppiando il tempo di sospensione. Noi facciamo la trasformazione anche con pochissimi additivi, utilizziamo solamente dell'acido citrico, vitamina C fondamentalmente, e un pochino di sannitro, che è obbligatorio. Stiamo facendo anche delle prove con dei prodotti e alternativi del sannitro, cioè estratti vegetali per la conservazione. In questa iniziativa qui siamo stati coinvolti perché siamo, diciamo, anche controtendenza noi, diciamo, rispetto alla grande trasformazione o alla grande distribuzione, dove siamo un po' snobbati, nel senso che magari vogliono un prodotto del genere, ma però non vogliono pagare una lira in più. Dopo la fine della fiera noi ci siamo anche stufati e diciamo, vediamo di trasformarlo noi e lo diamo direttamente ai consumatori, contenendo anche dei costi, insomma, dei prezzi relativamente decenti. Infatti appunto volevamo aggiungere che proprio il problema di questi prodotti di solito è il prezzo più elevato e forse anche la difficoltà di essere accessibili dove abitiamo, nel senso appunto la distanza da percorrere e quindi la difficoltà anche di raggiungere, no, il produttore che opera e che lavora con una certa politica rispettando alcuni principi che noi vorremmo condividere, ma appunto la difficoltà certe volte è appunto quella di dover pagare un prezzo più alto e la distanza che ci separa dal produttore. Sì, no, difatti per questo, anche essendo un'azienda giovane, insomma, abbiamo rilevato l'azienda di nostro padre, io e mio fratello, abbiamo rilevato questa azienda qua nel 98, abbiamo cominciato a implementare un po' tutto questo discorso qui dell'agricoltura integrata, della trasformazione con certa logica, e adesso con la commercializzazione. Adesso noi abbiamo un piccolo sito internet, purtroppo è piccolo e insomma non è che facciamo tanto, e abbiamo già messo dentro tutte le caratteristiche della nostra azienda e più una sezione dei nostri prodotti, c'è una foto dei nostri prodotti con la possibilità di per adesso ordinarli, poi anche il fatto di poterli anche spedire adesso piano piano, perché insomma non si può fare tutto in un momento solo. Ecco, potete trovarci su cirenaica.it, e per cui riusciamo anche a spedire un po' di dettagli, naturalmente con dei confezioni un po' decenti, altrimenti i costi di spedizione sono enormi, su un prodotto fresco, per cui deve essere confezionato in determinata maniera e spedito con certe garanzie, per cui non è che posso darla in posta e spedire un pacchettino normale che arriva dopo 3 giorni con i cagnotti che girano dentro nel pacco. Però ecco, stiamo cercando proprio di aiutare sempre di più i consumatori. Abbiamo già un gruppo di acquisto che acquista con questo sistema qua, con dei grossi quantitativi, per cui ci dà anche soddisfazione questo sistema qua. Ti ringrazio, ciao Luigi. A voi, ciao, ciao.